America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. You know, we're going to have winds anywhere from 55 to 60 miles per hour, and that's going to be in a lot of the major cities. New York City, Boston could see those. Beh, la bufera di neve, siamo sotto la neve, siamo ormai, come dire, a metà marzo. In Italia è primavera, in America, a New York, è ancora inverno. Secondo gli esperti dovrebbe continuare questa nevicata per il resto della giornata. Inutile fare adesso pronostici perché qui è presto al mattino, però sappiamo, le scuole pubbliche sono chiuse, gli uffici resteranno chiusi, 4.700 voli aerei cancellati, incluso quello della cancelliera tedesca Angela Merkel, che avrebbe dovuto atterrare a Washington proprio oggi. L'incontro con Trump è stato spostato a venerdì. Bene, direi di approfittare di questa giornata di pausa che l'America, soprattutto l'America qui della costa orientale, si prende per via della neve, e vorrei parlare per una volta d'altro, lasciamo la politica, vorrei parlarvi di un solo andata. Perché? Beh, perché qualche giorno fa sono stato a Bowery e ho visto la mostra di un artista italiano, Sandro Chia, è un grande artista italiano che molti anni fa aveva preso un biglietto di solo andata proprio per venire in America, dove poi è diventato uno degli esponenti chiave del movimento artistico della transavanguardia. La transavanguardia è un movimento con radici italiane, c'erano vari artisti, ma soprattutto mi ricordo, mi colpì proprio negli anni Ottanta il fatto che proprio Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco Clemente, che erano tre degli esponenti, ebbero una copertina del New York Magazine che si intitolava The Three C's, le tre C italiane. Era una rivoluzione proprio del mondo culturale, del mondo artistico di allora. Però non voglio darvi delle lezioni di storia dell'arte, anche perché i microfoni di America 24 ho proprio Sandro Chia. Buongiorno Sandro! Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Allora, Sandro, transavanguardia. Intanto, come mai nasce un movimento artistico e riesce ad imporsi? Perché non è una cosa banale riuscire a scrivere qualche cosa sui libri di storia dell'arte. Sì, tutto comincia negli anni, tardo anni 70, con la Biennale di Venezia, dove i giovani artisti avevano una loro sezione che si chiamava Aperto 80, e lì sono iniziati i primi contatti internazionali con le gallerie in auge dell'epoca, americane, tedesche e anche italiane, che esistevano all'epoca. Ecco, ma la transavanguardia cosa fa? Di fatto riprende un po' il tema figurativo. La transavanguardia è consistita in un cosiddetto ritorno alla pittura. Ritorno alla pittura da parte di una generazione che ha avuto una formazione culturale, artistica, nell'arte concettuale, quindi non era vera e propria pittura. Cioè era una pittura che travalicava la rappresentazione oggettiva del soggetto. Ecco, tu a un certo punto decidi, hai studiato a Firenze, insomma eri in Italia, poi sei stato un po' in giro, in Turchia, a un certo punto decidi di venire a New York, e a New York stai 20 anni, poi adesso continui a stare in America, da New York ti sei spostato a Miami. Ecco, cos'era New York in quegli anni? Cosa ti spingeva? Perché un biglietto di sola andata? New York era il centro, come ancora oggi, il centro dell'arte, e per l'appunto all'arte americana concettuale, che era un'arte molto asettica e basava sull'assenza di arte, cioè era un po' un paradosso, era l'arte senza l'arte, però era arrivata anche un po' al limite, cioè c'era anche una stanchezza. Ecco, tu quindi arrivi a New York, dimmi la tua prima impressione quando sei sceso dall'aereo, immagino, non sei arrivato in nave. Sono sceso dall'aereo, dunque il motivo per cui andavo a New York era perché si sarebbe inaugurata una mia mostra alla Galleria Sperone, galleria che era un po' il santuario dell'arte concettuale. Non c'erano abbastanza soldi da fare il trasporto, i dipinti, le tele dipinte erano arrotolate e me le portavo a braccio, e arrivai alla dogana e mi si chiese qual era il motivo della mia visita a New York, e dissi sto per fare una mostra a Manhattan e questi sono i miei quadri. E lì mi accorsi che New York era un luogo speciale, perché l'ufficiale dell'immigrazione si mise a ridere, mi fece un bellissimo sorriso e mi disse: Welcome to New York, Mr. Chia. Arrivai in città, arrivai alla galleria, srotolai questo rotolo di tele maleodoranti, ancora quasi fresche, quindi con un forte odore di trementina, e i soci della galleria scapparono. Uno disse: no, io sono allergico alla pittura. Insomma, ci fu una specie di fuggi-fuggi. Per fortuna poi arrivò Sperone e ricompose la situazione, montai i quadri, feci la mostra, l'inaugurazione venne di Warhol. Cioè, fu un grande evento, una novità che rinfrescò un po' l'ambiente di New York e il gusto, proprio le pulsioni artistiche passarono dai rigori dell'arte concettuale al barocchismo creativo della transavanguardia, diciamo. Ecco, per chiudere, tu continui a fare mostre, alcune delle tue opere sono in importanti istituzioni, anche italiane, al Senato della Repubblica, credo che ci siano due tue opere. Ecco, qual è oggi la musa ispiratrice per Sandro Chia in America? Ma non è poi cambiata molto dalla spinta iniziale, dall'inquietudine iniziale. Bisogna essere inquieti, ecco, probabilmente. E però avere un centro di ispirazione, probabilmente conta il fatto che sono nato a Firenze, che ho non solo studiato l'arte, ma l'ho frequentata, giocavo a pallone nel sagrato della chiesa e poi per rinfrescarsi andavo a vedere gli affreschi di Masaccio, per dire. Quindi c'era una frequentazione quasi biologica, no? Che non è più cultura, ma fa parte della propria biologia. E questo è un tesoro, un deposito personale che va fatto valere. Ed è il viatico che ti trasporta nel mondo. E il mondo ti fa apprezzare quello che sei, piuttosto che mettere in crisi quello che sei e produrre un adeguamento. È il contrario. Quello che sei penetra in questa realtà altra, che tanto più è diversa e tanto più ha bisogno di te, ecco. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Sandro Chia, grande artista italiano che ha preso un biglietto di sola andata per l'America e con noi ancora i microfoni di America 24 per proporci la canzone. Sandro. Ma io sceglierei Louis Armstrong, It's a Wonderful World. Louis Armstrong, beh, devo dire, in effetti, caro Sandro, tu un Wonderful World l'hai visto sotto ogni punto di vista geografico, di ispirazione artistica e credo anche spirituale. Dunque, Louis Armstrong, What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!